Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oh, ci fosse stato ancora il caro vecchio tutto il calcio minuto per minuto, ieri le radioline sarebbero letteralmente esplose, magari verso le 16:15, perché si giocava sempre tutti insieme rigorosamente alle 14:30 della domenica. Quindi verso le 16:15 sarebbe successo di tutto, carissimo Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Benissimo. Intanto l'aggiornamento lo diciamo subito dalla schedina, abbiamo fatto 7-7. Beh, non male, considerato anche che c'era una partita in meno. Assolutamente, nella 7 quale su 9. Un pronostico diverso, sì. Chiaramente io l'avrei beccato e tu quindi no. Sarebbe finito 8-7 per me. No, per me. Vabbè, comunque insomma, ci riproviamo venerdì. No, però che grande giornata, tutt'altro che banale quella di ieri e di sabato. Io devo dirti la verità, poi abbiamo tempo per parlarne fino alle 15:30, anzi vi do subito i contatti 800 24 00 24 se volete chiamare per intervenire, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Io carissimo Pier penso che non tutte le vittorie, per quanto sporche, pesanti, importanti, tutte abbiano lo stesso peso, e non è solo questione dell'avversario che hanno incontrato le grandi. Sì, però esprimi meglio questo concetto, in che senso? Sono nel senso che secondo me è più notizia ad esempio che l'Inter abbia trovato davvero una continuità piuttosto che la vittoria del Milan e della Lazio, per dire, ma a prescindere dall'avversario. Bisogna sicuramente procedere in maniera inversa a quelle che erano le previsioni della vigilia, quindi ti dico che secondo me la vittoria più importante è quella della Roma, che non a caso io non pensavo che vincesse, perché avevo pronosticato il pareggio, poi si poteva fare che non vincesse, ma insomma Genova è un campo molto difficile, ed è secondo me dal punto di vista della pesantezza la vittoria più importante. E poi comunque le altre hanno fatto il loro dovere, insomma sarebbe stato più che altro secondo me nel caso di Lazio, Milan e Napoli siamo di fronte al pericolo scampato, cioè sono tre squadre che hanno rischiato di buttare via due punti veramente sanguinosi e fortunatamente sono riusciti a cavarsela tutte e tre verso la fine, quindi è una buona notizia, insomma. Però che la Lazio battesse il Crotone, il Milan il Cagliari e ovviamente quella che mi manca, che è ovviamente il Napoli la Sandoria. E Napoli la Sandoria, bravo. Sulla carta pareva tutto scontato. Mi sembra che fosse della norma. Il caso dell'Inter è un po' diverso, perché l'Inter ha vinto, a me non è che sia piaciuto moltissimo l'altro giorno, ha fatto 12 punti nelle ultime 4 partite e i punti, il campo ha sempre ragione. Il campo conta sempre, il risultato è decisivo. Detto questo, per onestà, secondo me in questi 12 punti ci sono anche stati degli episodi. C'è anche un pezzo di buona sorte. Ecco, sì. Però sai, se da un anno, da qualche mese, all'inizio del campionato. Ma poi diciamo, occhio al calendario, perché adesso l'Inter ha tre partite fra Chievo, Palermo e Pescara, tre partite veramente sulla carta, da 9 punti. Quindi potrebbe arrivare allo Juventus Stadium in una condizione di classifica buona, molto buona. Quasi giocarsi uno spareggio. A proposito della Juventus, qualche tema che mettiamo lì anche per gli amici da casa. Allora, Allegri che sta dominando, numeri da record, 26 vittorie di fila in casa, ha battuto Conte, solo due volte nella storia la Juve aveva girato meglio alla fine del girone d'andata, anche se in realtà manca ancora una partita, eppure continua a dover pensare al suo ipotetico futuro. How is your English now? No, basta con questo inglese, perché ma il mister ha fatto una battuta. Il mister con cui io ho sollegato a 30 anni, Galeone, diciamo, fatto una... Galeone, che, Galeone. Che abbiamo un rapporto veramente d'affetto, quasi da padre a figlio. Si diverte, scherza, ride. Max, ogni caso altrimenti studia, ci prendiamo tutto sul serio. In ogni caso studio sicuramente. Ma alla Juventus sto bene. Ma la cosa buffa è che sono andato veramente a Londra con mia figlia. Il giorno che sono sceso a Londra sul San, c'era la foto mia del Lazio. Ho detto, Madonna delle rose, proprio il giorno stesso. Hai capito, Pier, pericoloso andare a Londra di gennaio, e non solo perché fa freddo. Beh, la verità è che Allegri ha tanto mercato, perché è un grande allenatore, è in una grande squadra. Non l'hanno capito solo tanti juventini. Ma sì, vabbè, ma questo guarda, posso dirti un po', anche se è un po' una leggenda metropolitana, sicuramente rispetto a Conte ha avuto una strada più in salita, dovuta ad alcuni aspetti secondo me anche belli, anche romantici del calcio, cioè, mentre Conte chiaramente è un uomo Juve da sempre, e quindi c'era un'affinità elettiva fin dal primo giorno da allenatore, nel caso di Allegri c'era invece un passato diverso, no? anche a un certo punto polemico nel famoso gol di Montari, insomma è stato rivale per tanto tempo, arrivava in un momento in cui si poteva anche pensare che la sua stella fosse in declino, ma in questi due anni e mezzo credo che abbia dimostrato che non solo la Stella ha, in declino, ha ribaltato tutti i giudizi negativi. Ma secondo me ha dato alla Juve delle cose nuove. Però io... sai, Pier, ieri noi abbiamo parlato con Galeone, lui ci ha detto a Torino loro vogliono, e la sensazione è questa, forse ce l'ha anche Allegri, insomma, vogliono gente col profilo loro. A proposito, ti faccio sentire questa cosa, tu ieri eri già andato, perché poi in realtà Galeone, quella battuta lì sul ciclo finito di Allegri alla Juve, ce l'ha voluta un po' chiarire. Io ho detto che mi auguro che Max vinca il sesto scudetto, quindi che entri nella storia. Uno che entra nella storia va via. Non è vero che io ho parlato con lui, io glielo auguro che lui vinca e mi auguro che lui vada via a fare un'altra esperienza in Inghilterra, in Spagna. Quindi secondo me se lui vince lo scudetto, non ho detto che il suo ciclo sia finito, poi decide lui, perché io non ho mai fatto il procuratore. Però così se mi trovo a cena con Max è chiaro, 30 anni di conoscenza eccetera eccetera, una battuta gliela posso anche fare. Max, dai, cammina via che io intanto a Torino non ci vengo, fammi venire a trovarti a Londra, che ne so. Quindi meglio andarlo a trovare a Londra che a Torino. Prima del traffico ti faccio sentire altre due cose veloci. La prima, come inno alle partite vittorie sporche ma pesanti, c'è Spalletti e la Roma cazzutissima. La squadra per la partita che ha fatto oggi è stato fondamentale ritrovare Rudiger, Strootman a questo livello qui, perché Strootman ha fatto una grandissima partita, ed Dzeko ha fatto salire la squadra perché qualche volta si è trovato anche da solo laggiù, è stato sfortunato in quella chiusura perché poi da ultimo ci siamo anche abbassati un pochino troppo, e questa cosa qui, per come abbiamo condotto la partita, poteva anche essere non fatta, insomma, ecco. Però poi grandissima gara sotto tutti gli aspetti, sono stati bravissimi. Ilaria, squadra cazzutissima. Hai capito, si è lasciato andare. Mi dici in un flash, Pier, secondo te tra quelli che hanno vinto alla fine chi lo meritava meno, tra Inter, Milan, Lazio e Napoli? Ma io te la metto provocatoriamente, chi l'ha meritata meno? Chi ha avuto chi l'ha meritata meno? Inter e Napoli, secondo me. Inter e Napoli. Beh, l'Udinese ha avuto 5-6 palle gol clamorose, colpito un palo sul 1-0, cioè credo sia abbastanza oggettivo. Poi tutti devono essere contenti, voglio dire, questo non toglie niente, anzi. I tifosi del Napoli godono doppiamente, anche forse perché da un certo punto di vista, appunto, può essere anche una svolta in positivo. Napoli ha avuto comunque un episodio arbitrale, al netto del fatto che c'era rigore su Caglione, quindi già ieri abbiamo affrontato il tema, non c'è sicuramente stata malafede, ci mancherebbe altro, però sicuramente la partita si era messa piuttosto male e Napoli l'ha ribaltata negli ultimi 25 minuti, quindi credo che siano queste due. La Lazio ha avuto montagne di palle gol. Sì. Ha avuto anche lei un aiutino. Ha avuto anche lei un aiutino. Sì, no, anche se poi anche qui si può discutere. Il Milan comunque ha attaccato più del Cagliari, anche se il Cagliari pareggio l'avrebbe meritato. Certo, ma il Milan è un anno che va avanti, è un anno, un campionato che sta andando avanti così, ed è una qualità, non è, almeno io così la penso. Io rubo 30 secondi ancora al traffico, però devo farvelo sentire a proposito di Milan e di Montella. Ieri abbiamo sentito Gagliani sulla questione del mercato. Oggi scrive Franco Ordine: il Milan non può pensare di restare così, soprattutto a centrocampo, fino alla fine dell'anno. Però Montella mi sembra rassegnato. Poi andiamo in traffico. Allora, io credo che questo gruppo meriti grande rispetto. Questo gruppo merita grande attenzione e questo gruppo merita grande fiducia per quanto hanno fatto fino ad oggi. Premesso questo, credo che tutte le squadre siano migliorabili. Talvolta nel cercare di migliorare le squadre rischi di peggiorarle. Noi siamo attenti sul mercato rispetto a quelle che sono le nostre possibilità, intendo la società, e insieme vediamo quello che c'è da fare. Se c'è la possibilità di inserire qualche elemento a livello tecnico-tattico, a livello disciplinare, a livello di caratteristiche, saremo ben contenti, altrimenti io sarei contento lo stesso. Tutti convocati. Convocati. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Pjanic. Prova a scutriare dentro il pallone. L'area di rigore per Higuain. Che colpisce al volo. Mirante tocca. Ma non basta. 7 minuti per il vantaggio bianconero. Tanto per cambiare. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. Single mom. al volo Bruno Perez, deviazione, autogol, la Roma in vantaggio su destro di Bruno Perez, credo Izzo lo sfortunato protagonista. Mertens cerca la gran giocata, palla in mezzo, Stridic all'indietro, attenzione alla rete, Tonali incredibile, proprio lui al debutto. La Padula controlla, la Padula si gira, rimpallo, la Padula tocca il pallone, Bacca! E il gol del Milan, Carlos Bacca si sblocca e torna a segnare. Rossi cerca la sponda sul tocco di Cataldi, pallone vagante verso Immobile. Immobile trasforma in oro un pallone che sembrava perso. Immobile la sblocca all'ultimo respiro. Occhio alla battuta profonda, secondo palo a cercare Perisic, 2-1 Inter, Perisic, c'è il suo marchio su questa partita, minuto 87 l'intervallo. Saluto anche Maurizio Crosetti, ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno a voi. Ciao. Intanto ricordo i nostri contatti, 800 24 00 24, vi aspetto fino alle 15.30. Qualcuno con perfidia potrebbe dire che se non ci fosse la Juve sarebbe un campionato meraviglioso, con 5 squadre in 6 punti, Cross. Ma sì, si potrebbe dire, ma non uno juventino e non ai tifosi che sono molto contenti. Quindi noi non lo diciamo, campionato... No, perché sennò poi si dicono che siamo anti-juventini. No, sarebbe, sarebbe bellissimo, ci sarebbero meno cose belle, tipo il gol di Higuain di ieri, ci sarebbe più equilibrio, non credo che l'equilibrio... Dei valori livellati aumenti la qualità o lo spettacolo, la qualità di solito la fanno le eccellenze, che a turno sarebbe bene non fossero soltanto bianconere, nel senso che il campionato è bello quando distribuisce le sue qualità in maniera un po' più geometrica, dopodiché se una squadra è migliore e scava il solco, non lo fa per caso, e la Juventus lo ha fatto in questi anni e sta facendolo ancora di più adesso, è a 4 punti più 3 virtuali se vincerà il recupero contro il Crotone tra un mese, indubbiamente ce n'è abbastanza per dire che il campionato sia, insomma, non proprio chiuso, ma insomma socchiuso. Sì, avete sentito Allegri dire le prossime 4 partite sono decisive, che detto a gennaio, Pier, no, fa anche un po' impressione. Sì, anche se un fondo di verità c'è, perché questa è una fase della stagione nella quale la Juve ha un calendario un pochino più impegnativo, no? Vi conterete i commenti che erano stati fatti il giorno dei calendari. La Juve aveva un inizio difficile con Fiorentina e Lazio nelle prime due gare, e adesso queste sono le prossime due rivali, poi anche il Sassuolo, che poi c'è casa, comunque non è un avversario semplicissimo, poi c'è l'Inter, quindi insomma secondo me Allegri ha ragione. Se la Juve, come penso, spangherà, diciamo così, queste 4 partite con 9-10 punti almeno, insomma secondo me sarà un'ulteriore conferma. Detto questo, è chiaro che quelle che sono dietro devono cercare di agganciarsi, di tenersi al passo, quindi diciamo che questo calendario così un po' asimmetrico in questa fase potrebbe essere diciamo un alleato dell'equilibrio. Cioè per cercare di tenere in vita tutto il campionato. Sì, ci potrebbe stare, io ho dei dubbi. Sempre un'illusione ottica. In queste 4 partite. Beh, sì, però insomma. Assomiglia a un'illusione ottica. Sì, ma direi più a un accanimento terapeutico, ma lo diciamo, in senso buono. Il paziente campionato va tenuto in vita il più possibile. Ma allora come fa Brezhnev, bene Allegri a farlo. Come Brezhnev. Fa bene Allegri a farlo. Beh, giustamente, fa il mestiere suo, e soprattutto lui sa che la Juve ogni tanto sparisce dalle partite per brevi minuti o anche per delle fasi più lunghe. È successo e sono costate sconfitte queste sparizioni. Allegri sa che non è possibile sparire dalle partite in Champions, mai, nemmeno contro il Porto, che peraltro non è la squadra più debole dell'universo, è una squadra insidiosa, rognosa, non è il Real Madrid, va bene, non è il Bayern, l'abbiamo detto mille volte, un sorteggio teoricamente buono, positivo, tra i migliori possibili, però la Juve non può sparire né da se stessa né dalle partite. E quest'anno ogni tanto lo fa un po' più sovente degli anni passati, pur essendo la Juve forse anche più forte, in attacco certamente, a centrocampo è più debole, la difesa è migliorata, nel senso che si è completata, anche se alcuni pezzi importanti sono stati un pochino in cantiere a turno, e Buffon è sempre eternamente lì, a parte i malanni di stagione, e quindi la Juve, Allegri sa che se la Juve si distrae un momento non perde, non perde il campionato, ma può perdere la Champions. Sarebbe davvero imperdonabile. Sì, campionato quasi impossibile. Oh, a proposito di Juventus, ce lo stanno anche scrivendo in tanti, al 349-238-6666. E allora noi, insomma, lanciamo un appello al Pipita. Per favore, fermati qui. Facciamo una scommessa. Si vede tutto l'Italia questo. Il Rai 1. Vabbè. Sembra se Higuain va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e il mio erede questo qui. Mi dai l'uccello. Che non serve più! Non ti preoccupare, che non serve più! Hai capito, Pier, te lo ricordavi, sì? Sì, sì, tifoso del Napoli. Allora è arrivato a 15 Higuain, 12 in campionato, 3 in Champions League, fa 15, mi segnala Giorgio De Luca. E quindi Higuain, al prossimo gol bisogna procedere. Higuain non ha avuto nessuna crisi. Crisi? L'unica possibile flessione può essere nei confronti del suo record dell'anno scorso, che però è un risultato forse irripetibile, sicuramente irrituale. Quindi, e poi soprattutto Higuain è stato anche gestito da Allegri, a differenza di quello che succedeva l'anno scorso a Napoli, dove Higuain giocava ogni minuto fino alla famosa squalifica contro l'Udinese. Quest'anno ci sono state delle situazioni, la più clamorosa fu quella di Inter-Juve, nella quali Allegri, che ha un progetto e una rosa particolarmente ampia e un progetto su tre fronti, l'ha gestito, secondo me, in maniera sapiente. A rileggere certe critiche, sì, però i titolari sono lui e Dybala. Io credo che da ieri si apra la seconda parte, quella serie della stagione della Juve. Anche ci mancherebbe altro. I titolari sono loro due, con Mandžukić, che è un'ottima riserva, una riserva che sarebbe titolare in tantissimi club anche di fascia alta in giro per l'Europa. Ma il bilancio di Higuain è un bilancio ottimo. È un bilancio ottimo, nel senso che comunque confermarsi non è mai facile, no? No, assolutamente. Anche se chiaramente con quel tipo di investimento era un dovere, e le qualità del giocatore le conosciamo, quindi non è minimamente sorprendente tutto questo. Però la conferma sta arrivando e non ho altro da dichiarare. Cioè, no, assolutamente, ma credo neanche Higuain, Maurizio. Difatti ieri se l'è presa con quelli che dicono che ritocca le foto per far vedere che gli addominali, insomma, siamo veramente ai ritagli. Di sicuro non c'è da ritoccare le sue azioni, non gli serve il Photoshop per fare gol. E poi c'è una cosa da dire importante: sta cominciando a giocare con la Juve e non solo nella Juve, che sembrano sfumature dialettiche, ma i suoi gol, secondo di ieri per esempio, anche il primo, tutti e due in realtà, nascono finalmente da geometrie che prevedono l'integrazione di questo grande, grandissimo centravanti nella manovra, nel gioco, non soltanto morsi famelici individuali, non soltanto la zampata del grande che strappa il gol in ogni caso, anche se appena arrivato in una squadra nuova, il grande il gol se lo mangia, se lo prende, ma il grande integrato nella squadra diventa ancora più forte, ed è questo il progetto, e ci stiamo arrivando, la Allegri ci sta arrivando, per la Champions è fondamentale, no? E Higuain che gioca nei meccanismi della Juve è un Higuain ancora più forte di quello che è, non integratissimo, però già segnava tanto, quindi alla fine capite voi che di più non si può. Sì, la miscela rischia di essere esplosiva. Abbiamo un minuto prima della borsa, io voglio chiedere a Maurizio Crosetti un commento sulla notizia delle prossime ore, e cioè Zamparini che caccia Corini, 4 punti in 6 partite, e riprende De Zerbi, 5 punti in 12 partite. E vabbè, qui basterebbe prendere la pagina di Wikipedia o del vecchio Panini, caro, sì, vecchio Maracco del calcio. Si mette in fila l'esercito, la parata di Carnevale di Viareggio, di tutti gli allenatori, di tutti questi cibi del banchetto di Zamparini, tutti quelli che ha sgranocchiato in tutti questi anni, e l'abbiamo detto miliardi di volte. Dopodiché quest'anno il Palermo credo che non lo salva nemmeno Guardiola, che peraltro pure lui ha deciso di lasciarci prematuramente. Speriamo che ci ripensi, però insomma, al limite potrebbe sempre assumerlo Zamparini e poi cacciarlo, ecco, potrebbe essere un'esperienza. Guardiola, prima di andarsene da noi, potremmo dirgli: guarda, fatti un giro a Palermo che ti diverti. E poi vai a giocare a golf. E con questo rispondo anche a chi dice: bisognerebbe cominciare a parlare di un campionato in cui a fine gennaio si conoscono già le 3 retrocesse. Se non si conoscono, siamo abbastanza vicini. Siamo abbastanza vicini. È così. Pare brutto dar ragione a Lotito quando disse quella bestialità antisportiva. lui la diceva solo per ragioni economiche e di ascolti, ed era brutto dirlo e non si poteva dirlo né pensarlo. Era politicamente scorretto. Era politicamente scorretto, ma era tecnicamente esatto. Nel senso che 20 squadre sono troppe, non ce ne vogliono le ultime che sempre nel nostro cuore saranno. Beati gli ultimi perché saranno i primi, e come diceva Alfonso Gatto dei ciclisti del Giro d'Italia, tutti i primi al traguardo del mio cuore. Ma lui era un poeta. No, ma cioè, tra l'altro grosso, quella frase lì che lo Tito diceva, tra l'altro in una conversazione privata, questo va detto, perché lo si può sottacere, era il Palermo per il bacino l'utenza che ha è una tragedia sportiva per il nostro calcio, quello era un discorso diciamo sui bacini d'utenza, un discorso sicuramente poco romantico, che però secondo me è molto simile a quello che gli analisti finanziari del fenomeno calcio che sappiamo vive purtroppo, o per fortuna fate voi, anche di questo tipo di dinamiche, e in qualche modo possono fare. Palermo sarebbe una gravissima perdita, perché è una grande città, perché è una grande città del sud, e poi accorcerebbe l'Italia del calcio, accorcerebbe lo stivale. Vi devo fermare perché siamo già in ritardo per la borsa. Ringrazio Maurizio Crosetti, alla prossima. Grazie, ciao, abbraccio a tutti, ciao 800 24 00 24. Io vi aspetto per sapere cosa ne pensate di questa domenica da cuori forti. Borsa, tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the Playmakers. Tutti convocati. Adesso la squadra tatticamente è molto meglio. Bueno, adesso praticamente tutti lavorano e quando la squadra lavora insieme, per noi difensori è più facile. Prima aveva giocato troppo avanzato, troppo avanti, e praticamente eravamo solo in 3-4 che difendia. E adesso lavora tutti insieme e praticamente tutta la squadra difende bene. Questo Miranda ieri dopo Udinese Inter, scrive un amico via WhatsApp: l'Inter può emulare il cammino della Roma di Spalletti dell'anno scorso, che girò quinta con 34 punti e poi arrivò terza. Non lo so. Pierluigi Pardo, c'è anche Riccardo Ferri che saluto. Ciao Riccardo. Ciao, buon pomeriggio. Che vedremo stasera, ci vediamo fra qualche ora. Ciao, Pierluigi. Ciao. Ma sto già facendo stretching. Bravo. Ma perché? Per andare a sederti? Non hai bisogno. Ma no, io ti dico che secondo me è difficile. Ed è difficile perché lo scorso anno nella crescita, cioè alla crescita della Roma si unì il crollo dell'Inter nella seconda parte della stagione. E secondo me Roma e Napoli non crolleranno. Questa è la mia sensazione. Però la suggestione c'è, cioè il paragone oggi si può fare. La suggestione c'è, una suggestione forte. I numeri di Pioli che raccontavi ieri sono numeri eccezionali. Sì, e vogliamo ridare da quando è così, insomma, per chi non ci ha sentito ieri. 16 punti in 7 partite, 19 in 8, compresa la partita di Vecchi, cioè per intenderci nelle 8 partite senza De Boer, l'Inter viaggia a una media che è spalmata su tutto un campionato di 38 partite, però così da meglio l'impressione, dal benchmark, come si dice per le borse, fa 90 punti, cioè viaggia al ritmo quasi della Juve, l'Inter senza De Boer. Il problema era quello probabilmente, o no, Riccardo? Ma il problema era indubbiamente una condizione fisica precaria, una squadra che aveva perso l'identità, tutti noi la identificavamo come una squadra di grande qualità, e tutti noi non sapevamo il perché di questa squadra non potesse ottenere dei risultati. Diciamo che il lavoro di Pioli è stato un lavoro eccezionale sin dall'inizio, si è calato nel gruppo, ha cercato soprattutto di recuperare giocatori che erano stati messi un po' in disparte, avevano perso un po' di credibilità, avevano perso un po' di credibilità nei propri mezzi soprattutto, ed è stato molto bravo a recuperarli. Parliamo di Condobbia, dei due esterni D'Ambrosio e Ansaldi, lo stesso Murillo che sta piano piano ritornando in condizione. Devo dire che sta facendo delle scelte e sta, secondo me, in questo momento qua sta tenendo conto soprattutto anche dei giocatori che sono meno impegnati, e sta cercando di recuperarli. Quando parla di lavoro di gruppo, lavoro di squadra, devo dire che lui è il primo ad attuarlo, e questo diciamo la dice lunga sui risultati che sta ottenendo. Questo poi dopo fare dei paragoni con la Roma dell'anno scorso, secondo me in questo momento ancora prematuro. Sono d'accordo con Pierluigi quando dice che bisogna aspettarsi un crollo di Roma e Napoli, però è vero anche che ci saranno gli scontri diretti. Ecco, quei due scontri diretti, e metterei anche quello con il Milan, quello con l'Atalanta, quello con la Lazio, diranno esattamente quale sarà la posizione dove si potrà collocare lì. Ad esempio, delle cinque che hai citato te, tra l'altro sottolineiamo anche l'Atalanta, giustamente scrive un amico, ci siamo anche noi, per carità, l'Atalanta sta facendo delle cose davvero straordinarie. E dimenticavo la Juve, scusa. Dimenticando la Juve. Diciamo di quei cinque lì, che sono gli scontri diretti della zona Europa, l'Inter ne avrà quattro in casa nel girone di ritorno. Sì, è vero, ma devo dire che l'identità della squadra di Pioli non si scalfisce tra giocare in casa e fuori casa. Questo, la cosa bella è che la personalità di cui tutti tenevamo conto e pensavamo di questa squadra sta uscendo, quindi ci sono squadre che, per esempio come la Roma, che a parte ieri fa fatica ad esprimersi fuori casa, mentre l'Inter devo dire che invece a volte è ancora più bella fuori casa che in casa. Quindi questo la dice lunga sui risultati che potrà ottenere. Detto questo, il lavoro, c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi Pioli è un allenatore esperto, sa benissimo che appena alzi un attimino l'asticella te la fanno subito abbassare, quindi lavora quotidianamente senza cercare di entusiasmarsi troppo, perché sa che il troppo entusiasmo poi porta a non ottenere i risultati che si vuole prefiggere. Ma quindi Pier, cioè, facendo sintesi, avevano semplicemente bisogno di qualcuno che li facesse lavorare? Secondo me c'era bisogno di correggere degli errori abbastanza clamorosi, che con De Boer c'erano, insomma, squadra squilibrata, squadra poco protetta. Pioli, io l'altro giorno ho detto un favoloso allenatore normale, nel senso che ha fatto delle cose, secondo me, di grande buon senso. Non è un Inter clamorosamente diversa, però è un Inter che in questo momento sa gestire molto meglio le partite, cioè nei 90 minuti tu vedi che ha delle fasi nelle quali lascia un po' sfogare l'avversario, chiude quasi sempre bene, quindi è un sintomo importante dal punto di vista della condizione fisica, ha delle grandi potenzialità che prima o poi vengono fuori, è diventata una squadra che sta a aspettare, che sta a far sfogare gli avversari. Io poi, ripeto, non è che voglio contraddire quello che ho detto un quarto d'ora fa, io penso che ieri l'Udinese assolutamente non meritasse di perdere, anzi forse meritava addirittura di vincere. C'è chi contesta quello che ha detto Riccardo su Murillo e D'Ambrosio in ripresa, scrive un amico Alessio, dice: ero seduto vicino al loro settore, sono stati imbarazzanti nel primo tempo. Beh, D'Ambrosio ieri è stato in calo, secondo me, rispetto alle ultime uscite, aveva fatto però un grande finale 2016, credo Riccardo si riferisse a questo, cioè c'è una serie di giocatori che sono rifioriti, i due terzini che erano un problema dell'Inter, in qualche modo forse rimangono un'area che si può migliorare, però sono cresciuti molto, D'Ambrosio e Ansaldi. Poi ieri D'Ambrosio non mi è piaciuto tanto, questo è discutibile, però sicuramente nell'ultimo periodo hanno fatto bene. Brozovic è tornato a essere un giocatore, Candreva da quando c'è Pioli è cresciuto moltissimo, Icardi continua a fare quello che faceva prima, insomma mi sembra che ci siano tanti segnali logici. Poi c'è una scelta tattica chiarissima, l'ha detto anche ieri Pioli, cioè Banega, Gio Mario, uno dei due, nel senso che c'è bisogno di un centrocampo che possa proteggere di più la difesa. Ci aveva provato con Felipe Melo, ma Felipe Melo è stato squalificato, ma comunque sia l'idea di avere due giocatori che diano equilibrio davanti alla difesa è l'idea tatticamente rivoluzionaria, diciamo così, di Pioli. Non è che sia così rivoluzionaria, che De Boer questa ipotesi non la contemplava. Sì, e quindi si torna sempre al punto di partenza, e cioè a quelle che sono state le scelte completamente sballate di quest'estate. Riccardo, no, per completare, sì. Volevo completare, io mi riferivo chiaramente al periodo di gestione di Pioli, cioè non della partita di ieri, perché se analizziamo partita per partita chiaramente ci sono dei cali, no? Però un'altra cosa che balza all'occhio, al di là di D'Ambrosio e Ansaldi, di Condobbia, Brozovic e Banega, che giustamente ha sottolineato Pierluigi, c'è anche il fatto che anche quando l'Inter attacca, che era una cosa che non cioè la fase realizzativa non era il problema principale dell'Inter prima, però si evidenziava il fatto che magari attaccava con pochi uomini, e invece in queste ultime giornate devo dire che c'è molta densità in mezzo all'area, non c'è solo Icardi ad andare alla conclusione, la squadra segue l'azione, gioca molto più alta, e soprattutto quando perde palla c'è una grande disponibilità da parte di tutti di cercare di andare ad occupare degli spazi, a far sì che la squadra avversaria non possa avere queste famose ripartenze dove hanno messo in difficoltà parecchio l'Inter nella gestione di De Boer. Poi c'è chi dice: perché non dite che in queste quattro partite l'Inter ha avuto solo un gran fattore C? perché le altre sono mangiate tonnellate di gol. Tutti l'hanno avuto, perché la Sampdoria e il Cagliari non può recriminare, oltre all'Udinese, anche la Sampdoria e il Cagliari possono dire in confronti del Napoli, del Milan, di non meritare la sconfitta, no? Però purtroppo il calcio è fatto anche di questi episodi, no? Sono d'accordo, io l'ho detto, ma chiamiamolo, a parte che il fattore C nel calcio è sempre relativo, nel senso che quando tu vinci quattro partite di fila, comunque hai vinto quattro partite di fila. Poi, secondo me è onesto dire che queste quattro partite sono state quattro partite, a parte il Sassuolo, perché secondo me insomma, Sassuolo-Inter, tutto sommato la vittoria dell'Inter ci stava ampiamente. Il secondo tempo con la Lazio è stato strepitoso, il primo tempo con la Lazio è stato onestamente complicato. E la Lazio poteva andare in vantaggio, sì. Col Genoa si sono presi dei rischi sullo 0-0 e ieri è una partita nella quale sicuramente l'Udinese non meritava di perdere, quindi secondo me ci sta una valutazione di questo tipo, però intanto l'Inter queste partite le ha vinte, cioè quando una squadra comunque, anche se non brilla, trova la soluzione e succede per quattro volte di fila, è un dato. E poi ripeto, adesso c'è un calendario che è veramente molto interessante, perché tra Chievo, Palermo e Pescara tu potresti arrivare in una situazione molto molto stuzzicante andare allo Juventus Stadium, sì. No, quindi insomma, i progressi sono evidentissimi. Poi no, questa squadra sia capace di centrare il secondo posto, il terzo posto, secondo me dipende anche da quelle che sono davanti. Se quelle che sono davanti non hanno dei cali clamorosi, e non penso che li avranno, io penso che la dimensione dell'Inter sarà l'Europa League. No, ma credo che stiamo analizzando, no, scusami se ti interrompo, stiamo analizzando il fatto di questo cambiamento, no? Perché l'Inter abbia ottenuto questi punti al di là del fattore C. Tecnicamente e tatticamente possiamo analizzarla in maniera molto semplice, che prima quando andava in svantaggio non c'era nessuna reazione, quando era in vantaggio giocava nello stesso modo, non sapeva gestire la situazione, quindi ad oggi è una squadra che reagisce alle difficoltà, cerca di sopportare i colpi dell'avversario, quindi va in difficoltà in alcune fasi della partita, però ci sono delle reazioni, ci sono degli atteggiamenti sicuramente molto diversi rispetto all'inizio, certo, di stagione, certo. Quindi questa è l'analisi che si deve fare. Poi se si vince una partita per fortuna ci può stare, però come hai detto tu giustamente, se tu fai un filotto di quattro partite, insomma la fortuna può aiutarti una volta, può aiutarti, però se analizziamo in maniera un po' più oggettiva... Non può essere la spiegazione, altrimenti, esatto. Altrimenti ha ragione chi dice ad esempio che il Milan è virtualmente terzo perché ha avuto fortuna per gli episodi, e invece non è così. No, non è così. Milan ha meritato di essere lì. Di essere dov'è, assolutamente. Vi devo salutare perché... Ti devo salutare Riccardo perché c'è il Grazie. Traffico, alla prossima. Ciao Ligio, tanto poi, ciao. Tanto poi ti rivediamo stasera a Tiki Taka, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Io so quello che dico io e quello che è il mio rapporto con i giocatori, per cui a me interessa solo quello. Poi quando ogni tanto vado e di una semplice domanda ci si creano i presupposti per far casino, perché è inutile che mi risponda lei non è dentro la sala stampa. Questo fatto che mi rispondete da Milano quando io parlo con giornalisti di Roma mi fa impazzire, perché bisogna rendersi conto di quello che è il quotidiano lì sul posto prima di rispondermi dall'altra parte del mondo, ecco. Si fa apparire una situazione che non è reale. Siamo lì, abbiamo fatto 37 punti, sono tanti, siamo stati bravi perché insomma li abbiamo meritati tutti sul campo, nessuno ci ha regalato niente, adesso dobbiamo continuare perché adesso avremo un giorno di ritorno, tutte le squadre ci aspetteranno, perché magari all'inizio eravamo una novità, però adesso siamo lì e vogliamo rimanerci. Ma io non voglio andare molto in là, noi all'inizio dell'anno avevamo tre obiettivi, uno l'abbiamo portato a termine, non voglio neanche più nominare, il secondo inizia giovedì che è la Coppa Italia, il terzo rientrare in Europa, la lotta è molto ferrea, siamo dentro all'Europa League, poi ci sono altre 19, per noi forse 20 partite da giocare in campionato, quindi tutto ancora aperto e non bisogna illudere noi stessi né tantomeno gli altri. Noi abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo migliorare costantemente e sono anche attraverso queste partite che ci dobbiamo riuscire. Questi sono Spalletti, Inzaghi e Montella. Gli altri, abbiamo parlato dell'Inter, ieri abbiamo parlato lungamente del Napoli. Questi sono gli altri alle spalle della Juve, che giocano per un posto in Champions League. Saluto Nando Orsi, ciao Nando. Ciao, buongiorno a voi. Buon ieri anno. Non siamo, ciao, ieri ciao, non siamo ciao. Riusciti a tenerti agganciato di ritorno da Udine. Oh, mi ha fatto un po' sorridere la frase di Spalletti, hai capito Pier? Non si può parlare da Milano delle cose che succedono dall'altra parte del mondo, che poi sarebbe Roma, tre ore di treno. Sì, però guarda che tre ore di treno sono molte di più, sì. Da un punto di vista, insomma, Roma è un ambiente particolare, un ambiente bellissimo prima di tutto, nel senso che tutti i posti dove la passione per una squadra, per due squadre, ovviamente nel caso di Roma, diventa così, così clamorosa, così totalizzante, sono dei posti che se ami il calcio devi amare a prescindere, no? Quindi è chiaro che a Roma c'è un fabbisogno di calcio 365 giorni all'anno clamoroso. Ci sono queste radio, l'altro giorno sentivo Capello, che anche lui è rimasto colpito perché continua a parlare delle radio romane continuamente, come di un elemento che chiaramente qualche complicazione lo crea, ma non perché le radio siano cattive, per carità, ma perché si parla continuamente ogni giorno che il signore manda in terra, si parla per 24 ore su 24 di Roma, di Lazio, e quindi questo è il tipo di clima. Sicuramente è una situazione diversa rispetto a Torino, dove invece c'è un club che ha più tifosi in valore assoluto, quindi ha la forza economica di avere non so, due volte, tre volte il numero di tifosi che ha la Roma. E però si lavora come se si fosse però, in provincia. E però si vive in una città dove non è che ci sono 25 programmi al giorno per discutere di un mal di denti di Lugani o di un mal di pancia di Evra. Ecco, questo un po' le cose le cambiano. No, io ho capito, però lo capisco. Poi ripeto, è anche il bello di Roma. Io in quelle radio ci ho lavorato, ho tanti amici e secondo me è un elemento, ma anche Napoli è così, è un elemento di ricchezza bellissimo, però che in qualche momento questa cosa possa creare qualche affanno ci sta. Ci racconti qualcosa, Nando, delle radio romane che tu frequenti anche adesso? Perché poi Spalletti, voglio dire, lo conosceva quell'ambiente lì. Era così anche un anno fa, quando ha preso in mano la Roma, era così nel primo ciclo. Insomma, mi sembra un po' nervoso. Ma sì, è un po' nervoso, ma Spalletti proprio di carattere, proprio di carattere, quando sta a Roma lui un po' deve alzare un po' i toni anche quando non ce n'è bisogno. Sembrava che questa partita col Genova fosse stata apparecchiata, parata, come certi gufi pensavano che se la Roma perde a Genova chissà che succede, invece la Roma ha vinto anche con autorevolezza. Quindi quale migliore rivincita o quale migliore cosa di dire bah, a me sembra che la Roma stia facendo bene. Quindi ogni tanto Spalletti ha bisogno di parlare un po' lo spallettese, che non si sa per quale motivo bisogna prendersela sempre con i giornalisti se le squadre vanno male, o con le radio se le squadre vanno male, o con le televisioni se le squadre vanno male. A Roma si è riuscita a vincere anche lì, certo si vince meno. E c'era già la radio, non è che va male la Roma. Va benissimo, però purtroppo la Roma ha un ego, una risonanza che quando ti siedi su quella panchina devi sottostare a determinate cose, un po' come la Juventus, no? Però la Juventus vince, però ha delle pressioni per vincere, la Roma ha delle pressioni per vincere che poi non vince, e quindi il prestigio della panchina della Roma sta proprio in quello, in andare a cercare a sottostare a certe pressioni che non sono di una squadra vincente, di un ambiente vincente, però come se lo fossero. Sì, questo sicuramente. Poi io credo che ci sia nella testa di Spalletti la voglia di fare una piccola rivoluzione culturale. Mi ricordo la vicenda Totti, come è stata gestita, no? Al netto di tutto, Spalletti non ha scelto la strada in tanti momenti, non ha scelto la strada della diplomazia, ha scelto la strada anche dello scontro. E mi riferisco alle conferenze stampa, non so se vi ricordate quella famosa conferenza stampa prima del derby con i dati aerobici della partita alla quale ha giocato Totti, cioè l'ha presa di petto questa situazione, perché secondo me voleva dare una scossa all'ambiente. Che Spalletti possa dire serenamente che un giorno potrebbe allenare la Juve come la Fiorentina, il Barcellona o il Real Madrid è quasi normale. Ma questo sì, è giusto. Questo è quasi normale. L'aveva detto anche Conte mentre allora, allenava la Juve. La verità potrei andare è che, lì, questo, che questo è assolutamente normale, solo che una roba del genere detta a Roma. Beh sì, a Roma sì. Ma allora perché l'ha detta, visto che Spalletti l'ambiente lì lo conosce? Forse vabbè, perché lui vuole dare dei segnali, vuole dare ragione. Segnali all'ambiente, vuole dare ragione. Tra virgolette normalizzare tutto questo. Non dimentichiamoci che Capello che aveva detto che la Juve non ci sarebbe mai andato, poi c'è andato, quindi poi alla fine contano i comportamenti. E come dicevamo ieri, secondo me Allegri o qualsiasi altro allenatore di una grande squadra potrebbe andare alla Roma. Cioè, Allegri alla Roma, a parte che ci stava per andare nell'anno in cui poi è arrivato Garcia, era uno dei candidati per la panchina assieme a Mazzarri e a Garcia, che poi andò sulla panchina della Roma. Ma non credo che ci sarebbe. Che no, ci come, sarebbe come scatto, Spalletti no? È un virtuale candidato per la panchina della Juventus. No, certo. Perché no, ha ragione tu, Nando, che sta sì, dicendo perché, ha ragione lui? Ma perché ha ragione? Perché a Roma, se tu pensi che a Roma i giocatori della Roma e della Lazio non possono andare a cena fuori insieme, qui è impossibile. E uno scambio fra giocatori della Roma e della Lazio è impensabile. Mentre a Milano è una cosa che può anche è una cosa normale. Quindi questa, non diciamo che noi siamo un po' provincialotti, però ancora abbiamo questa, è l'ultimo baluardo che ci è rimasto, per cortesia lasciatecelo, scusate a noi provinciali, capito? Quindi noi siamo contenti così, ci piace così, anche se sappiamo che poi è sbagliato, però Spalletti ha detto una cosa giusta, perché finalmente dice la verità, lui è un professionista e non vedo per quale motivo dalla Roma non deve andare alla Juventus, ci deve andare come? Perché migliora professionalmente, perché adesso la Roma sarà anche una grande società, ma la società che ha vinto di più nel mondo, in Italia, la Juventus, e quindi tutti quanti gli allenatori si svegliano la mattina pensando di un giorno poter allenare la Juventus, così come poter allenare la nazionale italiana. Però se la dice così, Spalletti non dura tantissimo, eh? Purtroppo a Roma è così, però la rivoluzione culturale di cui parlava per Luigi, bisogna cominciare a fare la Juve, non è che no, ci andrebbe. È una frase ed è aggiunto subito altre squadre. Certo. Ma ha ragione Fernando in maniera perfetta, cioè il ragionamento è quello, è un posto speciale Roma. Roma è un posto speciale, non c'è da discutere, è una città meravigliosa, oltretutto è anche la mia, anche quella di Nando, cioè è un luogo nel quale il calcio, ma anche a Napoli, anche a Firenze, viene vissuto con un livello di trasporto totalizzante che è bellissimo. Viene vissuto con amore. E quindi tante volte il troppo amore o il troppo interesse in certi momenti crea delle pressioni, su questo non c'è dubbio, ci sono fiori di allenatori che ti dicono che è molto più difficile vincere a Roma, altra famosa frase di Capello. Anche perché sono pochi che l'hanno fatto, eh. La Roma di Capello, tutto il rispetto per il palmarès della Roma. La Roma di Capello, devo fermare perché di più siamo già oltre quasi per il GR e poi come sai Pier ci sfumano. Pier, dunque, a domani con te, sempre dopo il GR delle 14, buon tiki-taka questa sera. Yes. Saluto e ringrazio anche Nando Orsi. Ciao Nando, ragazzi, non sono riuscito a farti ragazzi la domanda sulla Lazio, ma la facciamo la prossima volta. Tranquilli. 800 24 00 24, torniamo dopo il GR. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Qualcuno scrive 349-238-6666, è più difficile vincere a Roma, diventerà più facile quando si abbandoneranno questi luoghi comuni. Per carità, sì, e forse questa è proprio la battaglia di Spalletti, però è anche vero che a dirlo sono quasi tutti i tecnici e i giocatori che da Roma sono passati. E un po' lo dice anche il palmarès della Roma e in parte della Lazio, che pure dimensionalmente è una società più piccola. 800 24 00 24, io continuo ad aspettarvi ancora fino alle 15.30. C'è Massimiliano dalla provincia di Bari? No, è caduto? Allora sentiamo le tre voci della settimana. La prima è Montella che scherza con Costa Curta sul suo passato da giocatore e gli dà dello scarso. Montella Costa Curta. È difficile giocare negli spazi e trovare spazio, ecco, scusate il gioco però di parole. Vincenzo, io ti ho marcato tante volte, se tu avessi avuto il Sosa di oggi tu mi avresti fatto 3 gol. E lo sai questo. Ma eri tu che eri scarso. Hai capito? Vai a fare un piacere agli amici, eh? Era scarso, E poi Higuain e Leonardo, sempre ieri a Sky, con Leonardo che svela questo retroscena di mercato di qualche anno fa su Higuain che piaceva al Paris Saint-Germain. Immagino quando ancora giocava nel Real Madrid, poi arrivò Cavani. Ma cosa è venuto con me a Paris Saint-Germain era già il primo in assoluto. Ah, perché ti ha detto no? No, ha detto no, era un momento difficile, No, e mo ce lo raccontate. Vi siete parlati quindi quando tu eri a Paris? No, io parlavo con suo fratello. Ah, ma tu lo sapevi, Pipita, che aveva parlato Leo con tuo fratello? Sì, lo sapeva. Lo sanno tutto. No, certo, come lo ha raccontato e mi ha fatto molta stima, no? Però in quel momento... Vabbè, ti perdono, dai. Ma dove era, Napoli? Era un po' difficile. No, era a Madrid ancora. Ancora a Madrid. Sì. Ma Lewandowski e Suarez... All'inizio del progetto... Vabbè. E poi il top assoluto della settimana, la Padula, che ieri sera la Domenica Sportiva ha suonato il pianoforte, tra l'altro anche benino, c'è una stecchina in mezzo, ma insomma ha suonato Chopin. La Padula. Standing ovation no, però insomma complimenti vivissimi. 800 24 00 24. Giorgio da Piacenza. Giorgio, sì, ciao, scusa. Eccoci. Io volevo dire un paio di cose sull'Inter. Sì. La prima è che anch'io sono un grande ammiratore di Pioli, nel senso che giustamente, come avete detto, è un allenatore che ha riportato normalità in un posto di anormali assoluti, ma ci sono delle cose che non capisco, ad esempio perché nel primo tempo mi mette in campo Banega e non Gio Romario dall'inizio, perché Banega primo non difende, va ai due all'ora e perde un sacco di palloni. È vero che li perde anche il moviolone di Dorbià, però poi li recupera perché è quello che ha recuperato più palloni, poi c'ha 20 anni. Sì. Quindi la scelta di Banega al posto di Romario per me è un po'... Però ad esempio Banega contro la Lazio, vado a memoria, nel secondo tempo, nell'ultima partita prima della sosta, alla fine era stato decisivo e non solo per il gol. Ma in fase offensiva, in fase difensiva non è mai decisivo, non è che recupera palloni a random, cioè, anzi, secondo me nella fase difensiva è molto peggio di Gio Romario. Poi comunque secondo me ha più senso Gio Romario con Dorbià che non Banega con Dorbià dal punto di vista tattico. E poi l'altra cosa che volevo dire, è vero che D'Ambrosio non ha giocato benissimo, però comunque consideriamo che le alternative sono il nano giapponese, che spero di non vedere mai più. Nano giapponese è un nome, dai, per carità, Giorgio. No, su. Ma io non lo sopporto. Sì, io va bene, un giocatore però, che non sopporto. Ma puoi anche dire che è scarso, però per favore, nano giapponese, no, dai, Nagatomo, poi no, vai avanti. Ma cosa vuol dire? Ma non bisogna attaccarsi alle parole, nano giapponese. Allora, mio papà, che portava a vedere l'Inter nel 67, chiamava Jair il Neger. Ma sì, non era trattista, era un socialista. Ma va benissimo, cioè, Giorgio. Non è giapponese perché è piccolino e giapponese. Allora, quello basso giapponese, dai, cerchiamo di essere politicamente corretti. Ma D'Ambrosio non sta facendo un pessimo campionato. Guardate che D'Ambrosio, il finale di 2016 è stato un finale positivo, ieri non ha fatto una gran partita. Però nel mazzo ci sta, anche se evidentemente sugli esterni l'Inter ha un problema e forse non è il solo problema, però i numeri li abbiamo dati prima, da quando è andato via De Boer, che oggi tra l'altro ha detto 3 mesi all'Inter sono pesati come un anno. La verità è che l'Inter marcia quasi a velocità da scudetto, se non ci fosse la Juve, se non ci fossero stati i primi 3 mesi della stagione. Andiamo un po' in Spagna, dai. Cross Casemiro, la mette dentro, l'insostituibile per Zinedine Zidane, fa 5-0 per il Real Madrid che saluta il Granada. Pato contro Piqué, prova a rientrare anche Sergio Roberto. Pato vede però Sansone, Sansone vede la porta, incrocia al destro e porta avanti Villarreal allo scoccare del 50° minuto. Nicola Sansone colpisce il Barcellona, 7 in campionato per l'italiano, 1-0 per il submarino amarillo. Messi! Pronto a scattare sulla sinistra il portiere, ti ho detto guarda il portiere, si sposta sulla sinistra e lui l'ha visto. Eh sì, ciao. Eh sì, ciao, ma ciao anche il Real Madrid, Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Avrà anche fatto un bel gol Messi, però quegli altri vincono sempre, quindi. È che non può giocare sempre da solo, poveretto, no. Insomma, già a Bilbao ci ha messo una pezza, ha fatto un gol. Ieri questa punizione, aveva preso il palo, aveva provocato un rigore, insomma, però è che può subire. Neymar non segna da mesi, 800, quanti sono? 832 minuti. Suarez no, va meglio, però insomma è anche a centrocampo. Il povero Iniesta è assolutamente in solitudine. Rakitic a casa, questi giovincelli presi per sostituire tanto Iniesta come Rakitic non vanno. Non valgono. André Gomez, Denis Suarez, Rafinha, insomma. Non valgono quello prima. Giocare... Alla fine si torna sempre lì. Il resto era anche abbastanza prevedibile, Filippo. No? Quando tu vivi un ciclo straordinario con una squadra straordinaria come è stato il Barcellona, quello di Guardiola, poi di Tito Villanova, insomma quello che ha incantato con quei giocatori lì, che ha significato così tanto anche per la nazionale spagnola, poi se ti vengono a mancare insieme i pilastri a centrocampo. Ma sì, è un uomo, no? E Xavi, vuol dire, ne ha beneficiato ancora un po' anche Luis Enrique. E una volta finita l'era Xavi è complicato, c'è un giocatore solo, però rappresentava la perfezione, no? il metronomo che deve essere accelerato, perché il problema vero di questo, cioè io ieri vedevo André Gomes, è un giocatore che ha talento, però fa sempre un tocco di troppo, un dribbling di troppo, un passo di troppo, per armare come si deve i tre statanassi davanti deve essere molto più rapido. E adesso c'è solo Iniesta che lo sa fare, e questo paga. Ma dobbiamo prenderla come un momento di crisi passeggera, non tanto pensando alla Liga che poi interessa tra Madrid e Barcellona, ma anche magari gettando l'occhio, ragionando sulla Champions che sarà da febbraio in poi. Io in Champions continuo a vedere il Barcellona molto competitivo, perché comunque è una squadra che comunque resta molto forte. E Messi può vincere le partite da solo, poi c'è Suarez, insomma, non lo so, io continuo a pensare che il Barcellona sia una delle candidate alla vittoria finale. E in una corsa così lunga come la Liga, è chiaro che a lungo andare puoi perdere punti, come sta succedendo. In Champions, alla fine quante mancano? 2, 4, 6, 7 partite, ma sì. Continuo a pensare che il Barcellona sia un'ottima squadra. Che sia una delle candidate alla vittoria. Resti sempre nella prima fascia. A proposito di vittorie, di candidate, oggi intanto Ronaldo si prende il milionesimo premio, no? Bah, sì, questo premio. Mi sembra la cosa più grave. Il best della FIFA. Esatto, i quattro del Barcellona che sono rimasti, non sono saliti sull'aereo. Ecco, perché? Ci aiuti a capirlo noi poveri perché? Qui. Perché sanno che non vincono e hanno altre gatte da pelare. Però l'aveva fatto anche Ronaldo all'epoca, col sì, pallone infatti, d'oro. Esatto, ed era rimasto. Gli avevamo dato dell'arrogante. Sì, significativa, e secondo me sbaglia anche il Barcellona. Vuol dire, una volta che dici che vai, devi andare, non si dice alle condizioni, è comunque una festa, cioè anche se vuol dire, è come se tu mi chiami e ti dico di sì, e poi dopo no. Mi chiama Radio 24, non rispondo, non è bello, insomma, no? Poi ci sono cose lì, c'è tutta un'organizzazione, secondo me è un errore. E bastava, insomma, o lo dicevi prima, oppure una volta fatto così è brutto. E sicuramente ci saranno polemiche e non si capisce, è chiaro, poi di mercoledì sera devono recuperare in Coppa del Re contro l'Athletic in casa, però lo sapevano anche prima e almeno potevano dirlo, non so, tre giorni fa o quattro, prima del pareggio di ieri sarebbe stato meglio, e non si comportano granché bene, è chiaro che questo premio è inutile, insomma adesso di nuovo ne abbiamo due, insomma sono però il Galà potrà essere stucchevole, ma se dici che vai ci devi andare. Sì, poi ci devi andare, ma anche semplicemente per una questione di immagine, se no dai l'impressione di quello che rosica, che era esattamente esatto. Quello che succedeva a Ronaldo quando il Pallone d'Oro li vinceva tutti Messi, e lui diceva io per venire ad applaudirlo non mi muovo verso sì. Zurigo. Sì, e questo è un po' il punto. Abbiamo criticato lui, critichiamo questi del Barça. E critichiamo anche quelli del Barcellona. Assolutamente. Senti, e vediamo. Ti devo far sentire Marotta invece su Dybala, perché qui da noi si discute molto dell'offerta 90, 80, 100, 110 milioni più Morata per Dybala. Allora, offerta del Real Madrid. Allora, ti faccio sentire come ha risposto ieri Marotta. Il vincolo che abbiamo con Dybala è, come sapete, pluriennale, quindi abbiamo 3 anni e mezzo di contratto. Noi abbiamo approcciato con il suo entourage nei mesi scorsi perché giustamente vogliamo migliorare il suo rapporto economico, perché comunque ha dimostrato di valere, quindi è giusto ritoccare il contratto. Detto questo, il rapporto è idilliaco, quindi non ci sono assolutamente timori da parte nostra che possa andare via. E quindi qual è la verità, Filippo? Io sto con Marotta. È sempre complicato comunque il Real Madrid, nel senso che se tu fai un investimento del genere vuol dire che Dybala deve essere titolarissimo, no? Allora se Dybala, se spendi 110, 90, no, 100, quello che è, non è per venire qua a fare la panchina. C'è ancora Benzema è un giocatore protetto che comunque ha la sua utilità, piace al presidente, ha un ottimo rapporto con Zidane. No, perché poi dall'altra parte poi ci sono Bale e Ronaldo, per cui no, considerando che hanno appena rinnovato Ronaldo, sempre in 11 si gioca e al massimo 4 davanti. Cioè non vedo spendere 110 milioni per un giocatore e poi dopo non sei sicuro di far giocare. A meno che non cambino le gerarchie, si decide che il 9 lo fa Dybala e va in panchina. Questo può succedere, però io al momento non mi sembra che sia questa la... È chiaro però che il Madrid, io mi aspetto un grande colpo la prossima estate. Anche allora, perché è stato questo... graziato dalla FIFA e quindi tutto deve avere un senso. Oh. Diciamo la verità. Sì, esatto. Insomma, graziato è il termine giusto. Sì, è preso due... E lì, guarda, è stato divertente perché la notizia della grazia presunta è arrivata proprio nel giorno in cui avevamo il brindisi natalizio con il Madrid, no? E quindi è arrivato Florentino Perez. Giustamente però noi abbiamo fatto notare, dico, va bene, tutto bene, però comunque colpevoli siete, perché sembrava addirittura che fossero innocenti. Dice, come? No? E dice, in realtà una sessione di mercato siete fermi. Vabbè, ma noi a gennaio non ci interessa. Certo, gennaio non esiste. No, ma è come quelli che patteggiano e poi si appellano al cavillo, esatto. Secondo cui il patteggiamento non è un'ammissione di responsabilità, per carità, magari, i giuristi ci diranno che è vero così. Senti, però... io ti voglio rubare ancora un minuto perché ti voglio far sentire questa cosa tutta italiana invece. Tu saprai, anche se eri impegnato, beato te, a seguire Messi e tutti gli altri, che sabato sera si è vissuto a Napoli lo psicodramma della caduta di Reina, altro spagnolo che in Spagna comunque continuano ad amare. Oh, ti faccio sentire Ferrero, che oggi poi la Samp ha fatto sapere che fa ricorso contro la squalifica di Silvestre e vorrebbe la squalifica di Reina per simulazione. Dato che c'è una simulazione netta, voglio vedere che provvedimenti prendono con Reina. Minimo dovrebbe prendere 3 giornate. E questa cosa nel calcio non deve esistere, perché bisogna giocare, il portiere deve imparare, il calciatore deve calciare, ma non il teatro non ci deve essere nei campi di gioco, perché gli attori stanno da un'altra parte. Questa è una simulazione e voglio vedere la punizione che prende la Reina. Ma sto aspettando. La punizione credo sarà 0, lo diciamo al presidente Ferrero, perché per tanti motivi. Allora, però tu che conosci bene gli spagnoli, Reina è o no il re delle simulazioni per i portieri? Perché si dibatte di questo da 2 giorni in Italia. No, per me c'è di peggio, però come aggravante per l'amico Pepe c'è il fatto che ha giocato tanti anni in Inghilterra. Allora potremmo rigirarla così. Avrebbe mai fatto una cosa del genere in Inghilterra? Assolutamente no. Esatto. A suo rischio e pericolo. Perché in Inghilterra non si fa e lui lo sa. Pepe è uno che si abitua bene, diciamo, entra profondamente nella cultura locale e ha fatto quello che anche altri fanno. Quindi in Italia, però, appunto, in Italia si può fare, dai, mettiamola così. No, grazie, non Filippo. Si deve fare, sì, però, non si deve fare, si fa. Però si fa, ma si fa anche in Spagna. Sì. Noi siamo noi latini siamo politicamente scorretti anche nel calcio. Io ti ricordo, torniamo a, bastava chiedere, Pepe, ma dice, con la maglia in Liverpool l'avresti fatto? Ovviamente, risposta: no. Vabbè, in TV ha detto, nelle immagini vedo che non si vede il tocco, però fidatevi, c'è stato. Noi aspettiamo. Grazie Filippo. Vabbè. Grazie a voi, ciao. Grazie ciao, Filippo, ciao. Chiedo un mezzo minuto di pazienza al mio prossimo ospite perché c'è Nicola da Piacenza che aspetta da un po'. Nicola? Sì, sono eccoci. Qui. No, ma io devo fare due considerazioni. Sì. Sono interista, ho 70 anni, sono sempre stato interista, sono circondato da juventini in casa mia, fuori. Quindi sono sempre stato in piena sofferenza. Io dico al mio conterraneo di prima, Piacentino, sì, di prima, che lui si deve dare all'Ippica, soprattutto quando ha detto il mio papà dice, mi ha fatto girare le scatole. Lui forse non ha capito bene che stiamo vincendo, quindi tutto quello che fa l'allenatore questo. Va bene, tutto bene, sì. No? E quindi io ho fatto questa considerazione, se tutti, io lo sa, vado a vedere le partite, vado anche in trasferta qualche volta con degli amici. Complimenti. Però quando sento e vedo questi scalmanati, tipo il mio conterraneo, perché ha iniziato bene, ma poi sì, ma no, però Nicola non era scalmanato, insomma, ce l'aveva con Nagatomo. Vabbè, però fai bene, vai avanti così. Grazie Nicola. Parliamo un po' di basket con Meo Sacchetti. Tanto lo saluto, grazie Meo Sacchetti di essere qui con noi. A voi, buongiorno. Vi ho sentito dei dibattiti. Scalmanati del calcio, sì, sì. Allora, basket al giro di boa. Ieri si sono completate anche le 8 della Final 8 della Coppa Italia. Brindisi insieme a Brescia ha strappato il biglietto d'invito proprio in extremis. Tanto giocherà a metà febbraio, quando ci sarà la Coppa Italia contro Milano, il che insomma non è una sfida non particolare. Sacchetti 2 anni fa la Coppa Italia l'ha strappata a Milano, guidava Sassari, poi ci ha vinto anche lo scudetto buttandola fuori in semifinale. Non lo so, dà qualche sensazione? Beh, sicuramente dà sensazione, perché se, quando giochi contro la squadra più titolata d'Italia e la squadra più forte, ti dà dell'emozione, degli stimoli diversi. È sempre stata anche negli anni passati con Sassari, perché è logico, sto dicendo che come nel calcio le squadre vanno a giocare contro la Juventus, trovano degli stimoli ma diversi. C'è spazio per un altro miracolo o no? Ma guarda, da parte nostra, io sono uno che vive di sogni e di ambizioni, poi una partita su 40 minuti può succedere di tutto, sicuramente, ed è giusto che i miei giocatori vivano questa esperienza qua. Ma la Coppa Italia è una cosa strana, perché ci sono 3 partite in 3 giorni, si arriva lì, c'è la favorita, ma su 40 minuti può succedere veramente di tutto. Perciò vediamo, andiamo a giocare, sappiamo benissimo che probabilmente rientreranno anche degli infortunati e tutto, però Che c'è una favorita chiara e insomma, questa qui un è logico, che pare scritto. Sì, ma sicuramente era come il discorso della Coppa Italia, si diceva che faceva fatica a perdere qualche partita e poi ne ha perse 2 nel giro di 15 giorni, perciò voglio dire, sono anche momenti difficili di una squadra che stava attraversando un po' dei momenti difficili, un po' per gli infortuni e un po' dei problemi, perché penso che allenare e giocare a Milano non sia facile, sia nella pallacanestro ma anche nel calcio, come si è sentito prima. Assolutamente. Ma ti sei dato spiegazione su perché invece in Europa Milano non riesca ad alzare l'asticella? Beh, ma in Europa è molto più difficile, perché le squadre sono più forti. Cioè, voglio dire, ci sono delle squadre che sono forti fisicamente, ci sono squadre che sono meno forti fisicamente ma giocano bene. Giocano molto bene, perché Baskonia e Bamber, pur non essendo magari di livello top, però sono squadre che giocano bene. E poi è un campionato molto difficile, si gioca ogni 2 giorni. Però alla fine penso che l'Europa sia, a parte il livello dei giocatori, una questione di durezza mentale. Questa è la cosa più difficile. perché magari puoi giocare 30 minuti, 20 minuti, ma devi stare 40 minuti per giocare una partita. E lì va al di là delle capacità tecniche o fisiche dei giocatori, certo, proprio la durezza mentale che fa diventare forte. Ti stanno arrivando tanti messaggi da Varese. Allora, se vuoi rispondere a uno per tutti, l'ha scritto Giorgio. Grande Sacchetti rivolge un pensiero di speranza a Varese, che è langue ultima in classifica. Beh, ma sicuramente l'ho già detto. Allora, io logico il risultato di Brindisi è in primis perché alleno lì, però le altre cose che seguo è mio figlio che gioca a Sassari ed è la cosa importante, anche perché a Sassari ho fatto 7 anni meravigliosi. E poi logico che vado a seguire Varese e poi vado a seguire anche Torino. Logico che Varese è stata una tappa importante della mia carriera, sono sempre stato tifoso di Varese. Adesso non posso esserle perché gli gioco contro, però è logico che non è un momento facile. Non è un momento facile. Però è ancora lunga. Beh, ci sono 15 partite, può succedere. La classifica è molto corta. Ho visto che per arrivare ai playoff alla Coppa Italia siamo arrivati, non so, 5 pari merito, poi c'erano altre non so quante squadre, 12 punti. Perciò voglio dire, la cosa è cortissima e bisogna essere non duri mentalmente come in Eurolega, ma però ci serve nel giro di ritorno una durezza mentale per raggiungere salvezza, playoff e poi chi ha ambizioni più grandi per raggiungere altri traguardi. Anche se fin qui una vera anti-Milano, diciamo la verità, non l'abbiamo vista. Però c'è tempo, la stagione regolare e i playoff sono due stagioni completamente diverse. Io ringrazio Meo Sacchetti, purtroppo il nostro tempo è finito. Grazie Meo. A voi, arrivederci. A prossima e buon anno. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 14.